Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Gianni Amelio, regista del film Campo di Battaglia, al cinema da giovedì 5 settembre 2024, ben trovato. Buongiorno. Che storia hai raccontato? Non ho fatto un film di guerra, ma ho fatto un film sulla guerra. C'è una differenza, nel senso che il film di guerra quasi sempre diventa un film di avventura, di intrattenimento un po' superficiale. Qui si tratta invece di un film che racconta la Prima Guerra Mondiale, però dall'interno, e non ci sono battaglie, non ci sono scontri tra soldati, ma c'è qualcosa di molto più nuovo rispetto al resto del cinema italiano del passato, che il film si ambienta in un ospedale militare dove continuano i conflitti del fronte e dove arrivano a centinaia i feriti, quelli proprio vicino alla morte, e c'è uno scontro sotterraneo tra due amici d'infanzia, poi di università, eccetera, che vedono la guerra in due maniere opposte. Posso rivelare forse una cosa, che poi è il centro di tutta la drammaturgia del film, che uno cerca di guarire i soldati per rimandarli in battaglia dove moriranno. L'altro peggiora le ferite per farli mandare a casa. Come nasce tutto? Tutto nasce da una specie di provocazione che un giorno mi ha fatto un produttore. Perché non fai un film su Caporetto? E io, che avevo voglia di parlare dell'argomento, ho detto: ma mi dai i soldi per poterlo fare? E a quel punto, insomma, ho capito che i soldi per fare un film sulla ritirata di Caporetto non ci sarebbero mai stati. Però l'idea che volessimo fare insieme un film sulla Prima Guerra Mondiale è stata un'idea che io mi sono portato dietro per solo qualche giorno, e poi ho cominciato a scrivere. Poi ho scoperto, ma questo già un po' lo sapevo, che a metà del 1918 è scoppiato un caso di pandemia che ha fatto 15 milioni di morti, che era la pandemia cosiddetta spagnola. E beh, c'è allora qualche eco verso l'oggi, no? Oggi che ci sono tante guerre in Medio Oriente, a Gaza, oppure in Ucraina, dove la guerra ci tocca sempre comunque, e in qualche caso veniamo anche da una pandemia dolorosa, e quindi le due cose messe insieme sono due guerre che si devono combattere in due maniere differenti. La trama è anche un po' composta con una specie di suspense che porta poi a scoperte sempre nuove tra i due personaggi protagonisti maschili e una donna, che è una loro vecchia compagna di università, una ragazza che fa la Croce Rossina dentro l'ospedale, che comunque ha un ruolo molto molto molto importante all'interno della storia. Nel film tocchi vari punti importanti e legati anche all'oggi: la retorica patriottica, il cinismo dei vertici militari, ma anche il ruolo dell'informazione come propaganda. C'è un personaggio che dice, è un generale: i giornali scrivono quello che vogliamo noi. Le verità dei giornali sono le nostre verità, non le loro verità. Questa è una frase che io ripeto quasi testualmente. Prima Guerra Mondiale è stata caratterizzata soprattutto dalla crudeltà della bramosia di potere, è una guerra fatta da disgraziati, da ragazzi anche di 19 anni raccattati da tutte le regioni italiane, impreparati alla guerra perché gli hanno dato in mano un fucile, gli hanno detto spara che quello è il nemico, ed è stata tutta una guerra di strategie di alti comandi militari, dove insomma l'Italia ha cambiato bandiera anche all'interno del conflitto, insomma, come dice una didascalia all'inizio del film, è stato il 18, l'anno della vittoria, però questa vittoria è molto, molto, molto discutibile. Per quanto riguarda i riferimenti all'oggi, credo che siano riferimenti inevitabili, anche se le guerre hanno cambiato faccia in qualche modo. Anzi, sono guerre ovviamente tecnologiche, quelle di oggi, dove basta che uno spinga un bottone e distrugge mezza umanità, mentre la crudeltà della Prima Guerra Mondiale era proprio lo scontro corpo a corpo, il fatto che tu vedevi in faccia il nemico e a 2 metri di distanza, e quindi alcune volte avevi anche lo shock del campo di battaglia, insomma, e impazzivi quasi per questa improvvisata mano di morte, soprattutto perché è stata una guerra che ha fatto tantissime vittime, e tutte le vittime di questa guerra sono state praticamente innocenti, sia sul campo dei civili che sul campo militare. Poi arriva questa spagnola, si chiamava così, l'epidemia del 18, e quindi bisogna fare i conti anche su un fatto: i soldati non muoiono più di ferite, ma si infettano e muoiono o si ammalano di questo virus che non si conosce e che somiglia tanto ai virus che circolano un po' in tutto il mondo adesso. La storia insegna qualcosa o siamo destinati a riviverla attraverso le stesse dinamiche? Ahimè, è la seconda che hai detto. Purtroppo le dinamiche sono sempre le stesse. Il potere che esercita se stesso e incarna fino alla distruzione la propria bramosia, e dall'altra parte invece c'è la gente comune, ci siamo noi che ne paghiamo le conseguenze. Voglio dire, sono i deboli, sono i fragili, sono le persone che vivono la vita di tutti i giorni poi a scontare la guerra. La guerra è quasi sempre qualcosa che nasce dalle dittature, la guerra non nasce dalla democrazia. La democrazia dovrebbe risolvere o risolve i conflitti sul piano politico, trova degli accordi in qualche modo. Le dittature invece portano a conseguenze estreme, comunque sono foriere di morte, ecco. Il film Campo di Battaglia al cinema da giovedì 5 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Gianni Amelio. A presto! Grazie, a presto a tutti, grazie. Ciro De Caro, regista del film Taxi Mon Amour, al cinema da mercoledì 4 settembre 2024. Ben trovato. Grazie. Qual è il tuo racconto? Avevo voglia, insieme a Rosa, di raccontare l'incontro di due solitudini. Perché un giorno io e Rosa siamo molto amici, camminavamo sulla spiaggia e abbiamo visto due donne che stavano facendo questo picnic sulla spiaggia, due donne non italiane. Ci chiedevamo perché stessero assieme, proprio non avevano niente in comune, venivano sicuramente da posti diversi e stavano in silenzio eppure sembravano unite. E da lì abbiamo iniziato a fantasticare. Ci facevamo domande, eravamo curiosi, ci siamo resi conto che alla fine abbiamo creato due personaggi così giusto per curiosità, e a quel punto cioè, forse abbiamo qualcosa da raccontare. Da lì abbiamo iniziato a mettere assieme i pezzetti e insomma ci è venuta voglia di raccontare appunto anche una cosa che mi affascina e mi spaventa allo stesso tempo, cioè tutte le coincidenze che si mettono in moto nella vita di due persone che nascono magari in due posti lontani nel mondo e poi che a 20, 30, 40, 50 anni si incontrano e diventano amici magari, o si innamorano, si sposano. A me spaventa il fatto che per una piccola cosa potrebbe non accadere, o che forse la maggior parte delle volte non accade, quindi è molto difficile incontrarsi. Com'è stato il lavoro di scrittura e poi di messa in scena? Il lavoro di scrittura è sempre un lavoro, tranne il rosa, un po' pazzo, un po' folle. Io non scrivo il soggetto, e questa è una cosa strana. Fortunatamente il produttore mi vuole bene e ha letto la sceneggiatura direttamente. Perché noi scriviamo in maniera tale da sorprenderci. Abbiamo i personaggi abbastanza chiari in testa e ci facciamo guidare da loro. Perché se io sapessi come va a finire, quando parto mi annoierei, e mi è capitato quando scrivo le sceneggiature in maniera canonica, mi fermo all'inizio, a un terzo, e stanno lì che giacciono incomplete perché non riesco. Ma invece io devo essere curioso di sapere come va a finire, e lo stesso vale anche per Rosa. Quindi collaboriamo, ci lasciamo sorprendere dalle cose, litighiamo, non ci parliamo per qualche settimana, però poi ritorniamo a lavorare avendo maturato le cose, magari avendo anche recepito meglio i consigli oppure i warning dell'altra persona su quello che stiamo scrivendo. L'impressione è che qui, come negli altri film, tu lasci ampio margine di spontaneità, di improvvisazione a Rosa. Sì, più che improvvisazione, perché poi alla fine la sceneggiatura è quella, è più un lavoro di ricerca di un momento di verità, di qualcosa che accade veramente in quel momento. Quindi magari si cambia semplicemente una sola battuta, magari un gesto, e io chiedo agli attori che sono in scena di sorprendersi e di lasciarsi sorprendere, proprio perché basta solo un piccolo cambiamento per arrivare ad assistere a qualcosa di vero che accade in quel momento. Io faccio tantissimi chuck, e in ogni chuck magari viene cambiata una cosa minuscola, no? E poi ogni chuck se ne cambia una, arriviamo alla fine che abbiamo costruito qualcosa, abbiamo ricercato qualcosa, e forse troviamo quel momento di verità che stiamo cercando, quando attore e personaggio in qualche modo si fondono, non riesci a distinguere. Insomma, è un lavoro che mi piace fare con gli attori. Loro fortunatamente sono contenti di farlo, poi con Rosa ci conosciamo benissimo, con lei non abbiamo a volte neanche bisogno di parlarci per capire dove vogliamo arrivare, quindi io credo che lei sia bravissima, riesce a mettere tutta la verità di cui è capace in un'interpretazione, in un personaggio. Io posso solo ringraziare di averla incontrata. Com'è stata la scelta dell'altra protagonista e com'è stata la loro interazione? Io insomma devo ringraziare Simone Isola, il produttore, perché lui ha detto una cosa su cui io sono sempre stato d'accordo. Vista la storia che stiamo raccontando, visto il personaggio, quello che vive il personaggio, non deve essere una persona, un'attrice che non conosca quello di cui stiamo parlando e che forse l'ha anche vissuto. Poi noi abbiamo incontrato Ieva perché lui non so come è arrivato, ecco, proprio come coi casi della vita, sia Ieva che lui sono riusciti in qualche modo ad entrare in contatto, me l'ha fatta incontrare. Ieva purtroppo è scappata dalla guerra in Ucraina, quindi sapeva perfettamente quello, insomma, che volevamo mettere noi nella storia, nel personaggio, anzi ci ha donato qualcosa di molto speciale, molto intenso e vero per lei, pur essendo molto diversa, perché poi lei è una persona solare, una persona che si vede che vive un dramma, ha una tristezza, noi ce ne rendiamo conto spesso quando stiamo con lei, quando arrivano delle notizie brutte, insomma non è facile per lei, e quindi la ringrazio per averci donato veramente qualcosa. È la prima volta che l'ho vista, che me l'ha fatta incontrare Simone, non abbiamo avuto dubbi, è sempre stata lei, proprio si è presa il ruolo perché non era possibile farlo interpretare un'altra persona, è bravissima, dal primo momento ha capito quello che volevamo fare, e poi quando l'abbiamo fatta conoscere a Rosa, a un certo punto si sono abbracciate, si sono capite senza parlarsi, è stato ancora più chiaro che avevamo fatto la scelta giusta. Il titolo? C'è venuto prima banalmente, ovviamente come idea, perché è una roba che ricorre nel film, questo taxi Mon Amour ricorre per vari motivi. Poi perché lei usa appunto questa macchina un po' come un taxi, la macchina non potrebbe guidare che per corteggiare la sua amica. E poi perché insomma certe storie tra persone, certe amicizie sono un po' come un taxi, ti accompagnano da un punto all'altro e poi scendi, te ne separi per sempre, anche se in quel momento è servito a qualcosa, è stato magari intenso, magari ti ha permesso di conoscere qualcuno, però è solo un breve tratto della vita, un breve tratto di strada, però può essere intenso, magari no, ma non per questo meno importante. Il film Taxi Mon Amour al cinema da mercoledì 4 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Ciro De Caro. A presto! Grazie, a presto! Con Chiara Malta, co-regista del film Linda e il Pollo, al cinema da giovedì 5 settembre 2024. Ben trovata! Grazie, buongiorno a tutti. Che racconto è questo? È un racconto tenero, divertente, malinconico, sulla memoria e sull'importanza della collettività. Come nasce tutto? Volevo fare un film per i bambini che trattasse i bambini come delle persone grandi, ecco, rispettando i bambini, non cercando di abbassargli l'età, ecco. E poi volevo fare un film d'animazione più libero di quelli che si usano fare. Avevo come un'idea di nouvelle vague dell'animazione quando ho cominciato a pensare a questo film. Che trama, che storia hai pensato? Visto che era un film proprio dedicato ai bambini, volevo che loro fossero interessati a questa storia, quindi innanzitutto un film che parla di loro in un modo forse più autentico, quindi non come i genitori vedono i bambini, ma come i bambini credo che sono, soprattutto quando sono senza i loro genitori. E quindi ho pensato a tante cose che potevano interessarli, che non sono per forza delle cose fuori dal mondo, quindi volevo che ci fosse una storia ambientata oggi in una città e non in un paese immaginario con streghe, draghi e superpoteri, e poi di raccontare forse anche degli adulti un po' più difettosi di quelli che il cinema per l'infanzia racconta, quindi dei genitori che non sono eroici per niente, degli adulti che a volte sono anche bugiardi, che si sbagliano, che cadono, che fanno delle gaffe, farli ridere anche, volevo parlare a loro. Com'è stato il lavoro d'animazione? È stato bello perché c'era una piccola equipe, avevo pochi animatori, di cui la metà appunto erano italiani, perché siamo una coproduzione tra la Francia e l'Italia. Eravamo in uno spazio, un open space, diciamo, quindi loro potevano venire in sala di montaggio, io potevo vederli disegnare, e c'era un ambiente molto familiare, erano poche persone, solo 8 animatori. Però tutto questo è iniziato soltanto dopo aver registrato il suono di presa diretta, al quale tenevo molto, quindi c'è stato un vero e proprio set che abbiamo fatto senza telecamera, quindi non abbiamo filmato, però gli attori erano liberi di muoversi, i bambini di correre, quindi il film emana dal set, cosa rara per un film d'animazione. Avete avuto dei riferimenti iconografici? Il film non ha tanti riferimenti alla storia del cinema d'animazione. Man mano che lo facevamo abbiamo avuto bisogno di indicare collaboratori dei film che ci venivano in mente, come spesso si fa quando uno fa un film, ne cita altri perché quelli esistono, mentre il film che si sta fabbricando esiste solo nella mente di chi lo fa. E però ecco, i film diciamo di riferimento tra virgolette erano tutti film live davvero, quindi so, c'è un film, abbiamo molto Peter Bogdanovich, che secondo me ha fatto delle commedie esilaranti, ce n'è una con Barbara Streisand che si chiama WhatsApp Doc, quindi per questo caos crescente è stato sempre il film di riferimento, quindi tutto quello che è incongruo fa ridere, più il caos aumenta, più la risata diventa sonora, ecco, questo era uno dei film di riferimento. Poi c'era All the Jazz di Bob Fosse per la canzone finale del padre, che volevo che fosse piena di contrasti, quindi delle parole molto malinconiche, però su una musica proprio da grande spettacolo, da proiettori e paillette, ecco. E poi insomma tanti altri film di riferimento, c'era anche molto Truffaut per la visione che aveva dei bambini che sono molto più resistenti di quanto l'adulto si immagini, che quindi anche se cadono dall'ultimo piano di un palazzo rimbalzano, mentre invece il genitore che guarda sviene. Cito un film di Truffaut che si chiama La Jean Poche, che ci ha fatto molto pensare durante la fabbricazione del nostro. Insomma, erano tutti film della storia del cinema, però non necessariamente d'animazione. E dal punto di vista iconografico, io sono una grande amante di Bruno Munari, che ho letto molto ai miei figli e del quale mi sono molto nutrita. Quindi sì, c'erano i libri di Munari, La nebbia a Milano, ma anche Leo Leoni, Piccolo giallo e Piccolo blu, forse per l'idea delle pastiglie colorate. La squadra d'animazione te la sei scelta e come ci hai interagito? Noi avevamo dei test anonimi e il caso ha voluto che dopo questi test anonimi ci siamo resi conto che tutti gli animatori erano giovani. Non è che avevamo la data di nascita nei test quando li abbiamo chiesti, quindi erano tutte persone molto libere, molto aperte, che non erano state ancora formattate dal mercato dell'animazione. Forse l'unico animatore francese un po' più anziano, beh, lui non ha retto, perché diciamo che c'era proprio la volontà di scardinare un modello, un modo di lavorare in animazione che include delle tappe che spesso si dice in gergo lock, che ogni volta vengono chiuse a chiave. Come noi volevamo un po' scassarle queste porte, quindi invertire l'ordine della lavorazione oppure lasciarci la possibilità di fare avanti e indietro. Gli animatori giovani accettavano questa cosa, li divertiva perché avevano pochi precedenti, e i più anziani, i senior, avevano un po' più di difficoltà. Mi ricordo specificamente questo animatore che diceva che non poteva disegnare male perché lui sa il film, visto che il disegno era veramente completato, che abbiamo privilegiato il movimento, diciamo, la figura, e a lui non gli andava di disegnare male, quindi se n'è andato su un altro film un po' più classicamente concepito. Il film Linda e il pollo al cinema da giovedì 5 settembre 2024 con i Wonder Pictures. Un saluto e un ringraziamento alla coregista Chiara Malta. A presto! Grazie a voi, a presto! Con Federica Di Giacomo, regista del film Coppia aperta quasi spalancata, al cinema da giovedì 29 agosto 2024, ben trovata. Grazie, ciao. Cosa hai raccontato? Ho raccontato un pezzo di Franca Rame dell'83 che parla di una società borghese in cui il tradimento è consentito solo all'uomo, e ho cercato di fare uno strumento anche di indagine dell'Italia contemporanea, e quindi ho creato una struttura mista fra finzione e documentario, e ho cercato di portare questi temi vedendo se eravamo andati avanti dopo 40 anni, dove se eravamo andati indietro. Com'era nata l'idea? Mi è stata proposta da Mario Setti e Chiara Crencini. L'impulso immediato è stato di creare una struttura drammaturgica un po' ibrida, aperta, di fare ricerca nella realtà, per cui con un gruppo siamo andati per un anno a vedere come si è realizzata la coppia aperta nei nostri giorni, e abbiamo incontrato molti rappresentanti di quelle che ora si chiamano le non monogamie etiche, cioè modelli di relazione diversi e che lottano per essere riconosciuti e perché la monogamia non sia più l'unico modello. A partire da questa ricerca abbiamo creato un trattamento, una specie di scatola in cui c'erano sia i personaggi della realtà sia questi due attori che, andando in tournée e portando in giro lo spettacolo della Rame, Chiara Francina e Alessandro Federico, piano piano venivano rappresentati anche nella loro vita, e quindi dal teatro si passa alla vita degli attori e si passa alla vita anche delle altre persone che loro incontrano, che hanno delle idee abbastanza diverse dalla loro, e creando delle occasioni di incontro con questi circoli, questi centri in cui si fanno delle letture su queste cose, con i libri che rappresentano il movimento, e quindi creando un po' di dibattito sulla questione della gelosia, del possesso, della parità femminile e della parità dei sessi all'interno della coppia. La scelta di combinare finzione e documentario è venuta subito, e come ci avete lavorato? Io vengo dal cinema della realtà, per cui il cinema della realtà è molto aperto, si presta a ibridazioni, si presta a esperimenti, e l'idea è venuta proprio perché il testo della Rame è un testo con dei temi che sono ancora molto attuali, ma soprattutto anche l'ispirazione della Rame come persona che portava il teatro fuori dai teatri borghesi, che lo portava fra le persone, lo portava nelle fabbriche. Addirittura mi ha raccontato la nipote della Rame che loro dai dibattiti stessi poi creavano i loro spettacoli, e quindi c'è stata una sintonia immediata fra il tipo di cinema che io amo e la posizione, la visione politica e teatrale che aveva Franca Rame. E quindi abbiamo iniziato a creare un dispositivo drammaturgico per portare questi due attori, poi sono svelati, diciamo, nella loro vita reale, per portarli incontro alla realtà. Nel frattempo abbiamo conosciuto una famiglia poliamorosa e abbiamo iniziato a seguire la loro vita quotidiana, una famiglia in cui c'è una donna che ha due uomini e con uno di questi ha una figlia, e vivono tutti insieme. E quindi l'idea era anche di mostrare come si realizza questa cosa, di dimostrare se nel nostro paese è possibile che una donna possa vivere con due uomini alla luce del sole senza avere problemi. Ecco, da questo viaggio che impressioni ne hai ricavato? Che esperienza è stata? Beh, è stata un'esperienza molto interessante, perché comunque questo mondo di modelli relazionali diversi è proposti tra l'altro soprattutto dai giovani, e quindi che propongono anche nuove terminologie, nuovi concetti. È stato abbastanza liberatorio anche per chi non è necessariamente poliamoroso, perché porta anche i monogami a vedere la propria realtà in modo diverso, a decostruire certe cose. Loro per esempio fanno tutto un lavoro sulla gelosia, sostengono che la gelosia sia un sentimento che ha a che fare con delle dinamiche, delle insicurezze su cui si può lavorare, e quindi si può andare nel mondo senza avere questo diktat dell'esclusività sessuale come fondamento della propria relazione. I concetti che propongono sono molto interessanti, e mi è piaciuto soprattutto riuscire a mettere nel film, a fare un affresco corale, a farlo diventare veramente un film plurale in cui parlano le nuove generazioni, parla anche un 93enne poliamoroso, e quindi è diventato un film trasversale, è diventato un film che attraversa tante generazioni. Che uscita è? In quante sale? Sta uscendo in 60 sale, penso che aumenteranno. C'è stata una buona accoglienza di pubblico qua a Venezia e insomma si sta creando molto interesse intorno al film. Il film Coppia aperta quasi spalancata al cinema da giovedì 29 agosto 2024. Un saluto e un ringraziamento alla regista Federica Di Giacomo. A presto! Grazie a voi, buonasera. Con la regista Simona Cocozza per presentare il suo film Sotto coperta al cinema da giovedì 5 settembre 2024, ben trovata. Ciao Federico, ciao a tutti. Cosa hai raccontato? Abbiamo raccontato la storia di Fiorenzo, un ragazzo che sogna di andare ai Caraibi, ma per varie vicissitudini non può permettersi il viaggio dei suoi sogni, allora questo viaggio deciderà di farlo, barricandosi in casa e fingendo di essere partito. A un certo punto arriverà un nuovo personaggio che è Matrona, e questa donna, irrompendo nella sua casa, irrompe anche nella sua vita, e insieme scopriranno nuove avventure, nuovi sogni da costruire insieme. Sto cercando di non spoilerare, la cosa non è facile. Come nasce tutto? Da un articolo che ho letto da proprio tanti anni fa, quando appunto le staycation, perché staycation viene riconosciuta come la vacanza talpa, non era ancora molto diffusa, e appunto di un uomo che aveva detto di partire e in realtà era rimasto a casa sua, e da lì insomma ho incominciato a sviluppare la storia. Poi la storia appunto l'abbiamo un po' rivista qualche anno fa insieme all'altra sceneggiatrice Samantha Cito, e abbiamo trovato la grandissima collaborazione da parte di due attori strepitosi, che sono Antonio Folletto e Maria Pia Calzone, che hanno creduto molto in questo progetto, hanno amato molto i propri personaggi. E loro come li hai scelti? Li ho scelti perché è difficile pensare, adesso per me ancora di più, pensare un Fiorenzo che non sia Folletto e una Matrona che non sia la Calzone. Il film è ambientato a Napoli, entrambi, anche se in stagioni differenti, hanno lavorato nella serie Gomorra ed erano quindi molto noti al pubblico per personaggi totalmente differenti. Questo inizialmente in realtà un po' quasi mi spingeva ad allontanarmi da loro, perché dicevo no, non possono essere personaggi riconosciuti in quel modo, ma poi essendo passato comunque del tempo dalla prima e dalla seconda stagione, la stagione appunto a cui hanno lavorato i due attori, ma soprattutto confidando in quella che è la loro bravura attoriale, ho capito che non potevano essere altre persone se non loro. È chiaro che come per tutti i film, inizialmente quando cerchi il casting giusto magari fai anche altre scelte, ti punti anche su altri attori, ma poi dopo capisci che non possono essere loro. Quei personaggi sono quasi scritti per Antonio e Maria Pia. E Napoli quanto entra in questa vacanza? Napoli entra tantissimo, anche se in realtà è una storia universale come tutte le storie d'amore, ma Napoli entra molto perché Fiorenzo rappresenta un po' Napoli con la sua voglia di riscatto, ma soprattutto di rigenerarsi e reinventarsi. Lui è la fotocopia precisa della cosiddetta arte di arrangiarsi tipica del popolo partenopeo a cui appartengo, e immagino che ci sono delle cose che forse in altri punti proprio del mondo, no dell'Italia ma del mondo, non potrebbero avvenire, anche delle reazioni, però è una storia d'amore e come tale ovviamente è universale. Il titolo com'è venuto? Di quelle cose che ti vengono un po' di getto, è sempre stato per me sotto coperta, un po' perché amo i titoli che possono avere un doppio significato, sotto coperta perché è sotto la coperta di Linus, quella dove chiunque si vuole nascondere per stare con se stesso e lontano dal mondo, che è quello che fa appunto il personaggio Fiorenzo. Oppure sotto coperta, anche come termine nautico, quando sei in nave ti devi riparare dal mare in tempesta, l'unico posto dove ti puoi riparare è sotto coperta. Oppure in senso un po' più sexy, sotto coperta appunto per la storia d'amore. Leggendo questo articolo e poi lavorando al film, cosa ti aveva impressionato e su cosa hai voluto puntare? Mi aveva impressionato forse un po' appunto questa fantasia del personaggio. Ripeto, questo è un articolo letto tantissimi anni fa, non era manco un articolo, era il classico trafiletto che trovi nel giornale di poche righe. Tipo, è stato ritrovato questo signore a casa sua e lui aveva detto di essere partito. Questa cosa è una cosa che un po' succede a tutti, ad esempio io in questo momento ti posso dire che sto rispondendo al telefono e in realtà che io sto a Malibu, tu che ne sai, cioè non potrei mai sapere se sto a Roma, a casa mia, a Napoli, a casa dei miei genitori o a Malibu al mare, quindi questa menzogna mi interessava, chi dice le bugie, perché lo dice e come lo dice, ma da quella bugia soprattutto ho incominciato ad interessarmi, come ti dicevo, al mondo delle staycation, cioè lo stare a casa e dire di essere partiti, che comunque è una questione che va oltre all'aspetto economico. Ovviamente le vacanze talpa inizialmente avevano un'importanza più psicologica che altro, invece adesso i dati statistici ci dicono che nel 2023 il 44% degli americani fanno staycation, quindi è un dato interessante che non andrebbe sottovalutato. Ovviamente poi da lì ho cercato di lavorare in quella che è una storia totalmente distante da quella che può sembrare la nostra realtà, ma in realtà non lo è, e con i toni che amo e che adoro sono quelli della commedia, perché secondo me il pubblico va rispettato. Se decide di passare 2 ore al cinema e di regalarti il suo tempo, è giusto che tu ne abbia rispetto e che possa farlo riflettere, ma anche farlo divertire. Questo è un po' quello che cerco di fare con i film. Che uscita sarà? In quante sale? Saremo ovviamente in tutta Italia. Una cosa importantissima è che c'è Cinema Revolution, e questo non è da prendere sotto gamba, il biglietto costa 3,50 euro, quindi tutta la famiglia può andare e ti costa meno di un gelato, quindi andate tutti al cinema a vedere i film italiani, aspettiamo a tutti quelli che vogliono sognare e anche quelli che non vogliono sognare, noi proviamo a farlo. Il film Sotto coperta al cinema da giovedì 5 settembre 2024, un saluto e un ringraziamento alla regista Simona Cocozza. A presto! Grazie, buona giornata a tutti. Con Gianluca Pignataro di Fandango Distribuzione per presentare il film Paradise is Burning di Mika Gustafsson al cinema da giovedì 29 agosto 2024. Ben trovato. Grazie, buongiorno a tutti. Cos'è questo film? Di cosa si parla? A noi è piaciuto molto l'anno scorso a Venezia, dove ha vinto la regia Orizzonti. È un romanzo di formazione, no? Un po' particolare, che riguarda queste tre sorelle di età diverse, da circa 8 a 15 anni, che si trovano a vivere da sole senza più i genitori. Stavano con la madre che si allontana e alla fine decidono di rimanere in questa situazione, di autogestirsi, e poi si racconta insomma un po' dei problemi e delle avventure, ma anche delle gioie, no? Che hanno in questo, finché non devono affrontare i servizi sociali che cercano di convocare i genitori, la madre, allora si inventano, diciamo, un modo per cercare di superare il problema. Di Gustafsson cosa sappiamo? È un'opera prima, lei è una regista svedese che ha fatto dei documentari, ha fatto questo film che ha esordito l'anno scorso qui vincendo la regia, poi ha girato un po' il mondo vincendo premi in altri festival come Londra, San Paolo, quindi insomma è un film che anche piace molto. Noi abbiamo fatto un paio di anteprime a Roma e Milano che sono andate bene, soprattutto come feedback del pubblico. Siamo usciti in questo periodo estivo sperando che il film possa avere un po' una vita un po' lunga e quindi avere anche un passaparola, no? Che è una cosa che è sempre più difficile oggi perché i tempi sono più stretti di vita in sala, però magari da fine agosto uno riesce ad avere una o due settimane in più, e questa è un po' la speranza, ecco. Cosa vi ha convinto di quest'opera? Ci è piaciuta molto a tutti, l'anno scorso qui, poi abbiamo iniziato a parlarne con il coproduttore italiano, perché è una coproduzione, che è Intramovies, con cui abbiamo anche un rapporto da anni, e quindi poi abbiamo deciso di distribuirlo insieme, insomma siamo molto contenti. Quali sono secondo te i suoi punti forti? Questo sentimento, come si dice, di sorellanza tra queste ragazze, e anche poi con un'altra donna con cui la più grande di queste tre sorelle si incontra, e il rapporto di amicizia che nasce, e poi ci sono tante cose, la musica. È un film molto, molto gioioso in qualche modo. Che uscita sarà? Questo è un periodo dove molti cinema sono ancora chiusi, soprattutto in provincia, no? E noi usciremo con una quarantina di copie circa, usciamo molto bene in tutte le città, nelle capozona, quindi da Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Genova e via dicendo, e appunto speriamo che si parta lì, per poi con il tempo la provincia in genere, appunto il cinema si riattiva dopo una o due settimane di settembre in genere, no? Quindi partire bene nelle città per poi allargarsi e fare programmazioni anche fuori. Il film Paradise is Burning di Mika Gustafsson al cinema da giovedì 29 agosto 2024. Un saluto e un ringraziamento a Gianluca Pignataro di Fandango Distribuzione. Grazie a voi. Con Michele Sancisi di Wanted Cinema, che distribuisce il documentario Pericolosamente Vicini di Andrea Pickler al cinema da lunedì 26 agosto 2024. Ben trovato! Ciao Federico, ciao a tutti gli ascoltatori. Introduciamo questo lavoro, di cosa si parla? Pericolosamente Vicini è un film molto affascinante perché riesce a trattare un tema di stretta attualità del quale molto si discute in questo periodo con un approccio cinematografico veramente ricco, e questo grazie all'esperienza di un documentarista come Andrea Pickler, che ha un lungo curriculum alle spalle. Il tema è quello della convivenza tra gli umani e gli animali cosiddetti feroci o selvaggi, abituati a vivere in territori distanti dai centri abitati, e che invece negli ultimi anni in varie regioni d'Europa, tra cui l'Italia, si avvicinano sempre di più appunto ai centri urbani. Il film Pericolosamente Vicini tratta degli orsi e degli umani che convivono strettamente in Trentino Alto Adige, ma come sappiamo in Italia ci sono altre situazioni, per esempio la convivenza con i lupi nelle regioni appenniniche o con altre specie pericolose in altre zone rurali del nostro paese. Il tema è molto caldo. Come sappiamo nel 2023 c'è stata la drammatica aggressione ad un podista, Andrea Papi, che è stato ucciso da un orso proprio in Trentino, e anche quest'anno in luglio un'aggressione meno tragica nelle sue conseguenze, però che ha portato poi alla eliminazione dell'orsa KJ1 che aveva aggredito senza ucciderlo un altro escursionista, e anche questa vicenda comunque ha portato molte discussioni e un dibattito molto acceso fra due opposte fazioni, quella degli animalisti che vorrebbero tutelare ad ogni costo gli animali e la loro libertà di movimento nei boschi e chi invece ha paura di queste possibili aggressioni e vorrebbe invece che il territorio fosse più tutelato e meno lasciato in balia degli animali selvaggi. Su questi temi si può discutere a lungo, ma il film ha il vantaggio, il pregio soprattutto, di portare molti dati che fanno riflettere. Intanto si dà voce ad entrambe le parti di questo dibattito, ma poi anche a molti esperti, i guardiacaccia e chi ha studiato il comportamento degli orsi, e ci insegna anche come comportarci se ci dovesse capitare di trovarci a tu per tu con un animale di questo genere all'improvviso in mezzo a un sentiero. E quindi offre molti elementi utili insieme alla fascinazione per la natura meravigliosa delle montagne che abbiamo nel nostro territorio e che in questo film possiamo ammirare copiosamente. Com'è stato il percorso di realizzazione? Il regista ha studiato per anni questo fenomeno e ha condotto molte interviste per documentarsi e poi ha scelto gli elementi più interessanti che aveva raccolto per creare un racconto anche misterioso, anche avvincente, perché il film si svolge un po' come un giallo che cerca di dimostrare insomma qualcosa, di capire qual è la soluzione migliore possibile e ci porta quindi a contatto profondamente con questa realtà. Dicevo che è un film emozionante perché alla fine chi di noi magari vive in città non ha un'opinione precisa in questo senso e tende insomma ad ascoltare, almeno parlo per me, le ragioni di entrambi, no? Hanno ragione sia quelli che vogliono tutelare la natura, però anche coloro che vogliono poter camminare liberamente. Quindi sicuramente c'è la necessità di nuove regole, di nuovi parametri da capire insieme e questo film ci può aiutare senz'altro a trovare delle soluzioni. Chiaramente chi vive il territorio quotidianamente è contro l'orso e si ripropone lo stesso dilemma che riguardava ad esempio la presenza dei lupi. L'unica strada sembra essere quella della informazione, della prevenzione, perché altrimenti si intraprende proprio la strada dell'uomo che deve dominare la natura e quindi anche la catena alimentare in qualche modo. Sì, naturalmente le popolazioni che vivono vicino ai territori selvaggi sono più sensibili all'argomento. Infatti il film è stato richiesto e molto apprezzato in quei territori, soprattutto in Trentino, ma anche appunto nelle zone appenniniche. C'è stata una proiezione molto partecipata nel Parco Nazionale d'Abruzzo, dove appunto si sente soprattutto forte il tema dei lupi. E ci dicono che molti spettatori restano anche commossi, insomma, dalle immagini, dalle storie che vengono rievocate in questo film. Credo che anche per un pubblico cittadino possa essere una visione intanto interessante che ci aiuta a farci un'opinione e poi anche una boccata di ossigeno nell'immergersi per un'ora e mezzo in questi panorami montani meravigliosi in cui andiamo a conoscere la vera natura selvaggia, insomma, che ci circonda e con la quale dobbiamo imparare a convivere. Che uscita sarà? L'uscita è iniziata quest'estate con alcune uscite evento nelle zone che dicevamo più sensibili al tema e in alcune arene estive. Poi il film proseguirà la sua vita nelle sale con la riapertura dei cinema e poi avrà anche una distribuzione televisiva. Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo? Per essere aggiornati sulla programmazione dei film Wanted nelle sale italiane si può sempre consultare la pagina www.wantedcinema.eu dove si accede ad un elenco appunto dei film attualmente in distribuzione con le sale costantemente aggiornate. Seguiteci anche sui canali social di Wanted per avere tutte le informazioni, anche qualche estratto delle clip, dei trailer che man mano noi carichiamo e presentiamo insomma ai nostri utenti. Il documentario Pericolosamente Vicini di Andrea Spickler al cinema da lunedì 26 agosto 2024. Un saluto e un ringraziamento a Michele Sancisi di Wanted Cinema che lo distribuisce. A presto! Grazie a tutti voi e buone visioni. Diego Labonia, curatore artistico della seconda edizione della rassegna Cinematic. Così lontani, così vicini. A Roma, all'Arena Aurora, dal 26 agosto all'8 settembre 2024. Ben trovato. Ciao a tutti i radioascoltatori, vi dediamo l'esperienza dell'anno scorso con Cinematic, esperienza che ha doppia valenza, sia perché è una rassegna cinematografica e quest'anno abbiamo fatto un focus sulla Cina, una Cina molto contemporanea, quest'anno abbiamo fatto più un focus su India e Bangladesh, e soprattutto perché siamo in questa arena Aurora, appunto come dice il nome, una vecchia arena, è stata aperta fino alla fine degli anni 60 e poi abbandonata e tuttora abbandonata. Quanti sono i titoli in programma? Sono 10 film, facciamo 2 settimane piene, quindi dal lunedì alla domenica, e la settimana l'abbiamo divisa con 4 film cinesi, un film organizzato dalla Indian Theatre Association Roma, che sono dei ragazzi studenti che studiano alla Sapienza e nelle altre università romane, che abbiamo contattato l'anno scorso, cioè ci hanno contattato, e quest'anno gli abbiamo dedicato una giornata solo per loro e lo organizzano tutto loro, sia con il film, con il pubblico e tutto, ma ovviamente sono tutti invitati i cittadini a partecipare, anzi. E poi abbiamo la domenica dove non facciamo un film, facciamo una sonorizzazione e quindi non è dedicata diciamo al cinema tout court, ma a una sonorizzazione, quindi ci saranno delle immagini sonorizzate. E la prima domenica c'è il progetto Low Y che fa DJ7 Visual, che è un progetto sempre qui di zona Roma Est, mentre invece domenica 8 ci sarà la sonorizzazione di Vertigini della distanza di Salvatore Inzana con il live set di Simone Pappalardo, una acustico. Sono previsti ospiti? Sì, quest'anno siamo riusciti per fortuna, grazie alla incredibile e sapiente e inestimabile, vorrei dire, capacità di Luigi Coluzzo, che abbiamo ingaggiato per questa edizione e spero anche per le prossime, perché insomma è stata una collaborazione molto importante e che ha portato degli ottimi frutti, soprattutto anche dal punto di vista dell'organizzazione per quanto riguarda gli incontri, e quindi avremo degli incontri soprattutto sulla prima seconda settimana, abbiamo il fenomeno della fantascienza cinese tra libri, film e soft power con Francesco Verso questo venerdì 30, oppure abbiamo il continuo di Möbius, presentazione con Francesco sempre Verso, venerdì e sabato ci sono questi due incontri di questa settimana. Poi abbiamo un incontro giovedì 5 con il regista Andrea Segre che presenta il nostro ospite e il film ci sarà a seguire, io sono lì. Poi sempre venerdì e sabato abbiamo altri due incontri, Splendidi Reietti, curato da Didi Editore, con la presentazione con Antonio Caruso e Liliana Liao. E sabato, Risveglio Femminista in Cina, un talk con Leonora Ciocca e Sara D'Ottoma. Quindi questi sono gli incontri, il focus è sempre sulla Cina, una Cina appunto contemporanea, quello che succede in Cina, come vanno le cose in Cina. I film spaziano appunto dal blockbuster 800 eroi, un film di lunedì, apriamo questo blockbuster di 800 eroi, che è un film cinese di propaganda, quindi anche per capire come l'industria cinematografica produce propaganda all'interno diciamo del sistema Cina e oltre. È un film che ha avuto semplicemente 1.800.000.000 di visualizzazione, diciamo, no, di visualizzazione proprio di andare al cinema. Quindi il potere anche del cinema all'interno diciamo della struttura statale cinese. Anche quest'anno, come negli ultimi 5 anni, perché questo processo di aprire queste arene è partito 5 anni fa a Teatro India, non so se vi ricordate, con un'altra visione, adesso questi 2 anni l'abbiamo fatto qui a Torpignattara, abbiamo sempre la collaborazione con Rai Cinema, con i corti Rai Cinema, e ci saranno mercoledì, abbiamo 3 volte a settimana di Emanuele Vicorito, e poi domenica abbiamo un altro corto che è We Should All Be Futurist di Angela Norelli, sono tutti i corti dell'anno scorso, e quindi continua anche con Recima la collaborazione, e poi mercoledì 4 abbiamo Osas, le donne di Benin City di Gabriele Gravagna, sempre più delle 23. Quindi cerchiamo di dare un po' spazio un po' a tutti, ci dispiace essere presenti solo 2 settimane, vorremmo fare molto di più, però vediamo se il prossimo anno il progetto riusciamo a estenderlo nel tempo. Ci dai tutti i riferimenti web per il programma? Ci potete trovare sicuramente su Facebook Film Society, che è la nostra pagina, oppure su Instagram Ex Arena Aurora, e c'è pure la pagina Film Society di Instagram, oppure sul sito cinematicarena.it. Seconda edizione della rassegna Cinematic, così lontani, così vicini, a Roma, all'Arena Aurora, dal 26 agosto all'8 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al curatore artistico Diego Labbonia. A presto! Grazie a tutti, vi aspettiamo dalle 18 in poi. con Lionello Cerri, uno dei direttori artistici della nona edizione di Fuori Cinema nei diritti. A Milano, alla Biblioteca degli Alberi, dal 5 all'8 settembre 2024. Ben trovato. Grazie, buongiorno a tutti. Cos'è questa rassegna? Questa è appunto il nono anno che facciamo Fuori Cinema, è una edizione di incontri con i personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, del cinema, della musica, e che si incontrano con un pubblico che può venire gratuitamente. La facciamo in un parco molto bello che è la Biblioteca degli Alberi a Milano. Ed è da 3 anni che Fuori Cinema è sui diritti. Quest'anno fare da filo conduttore sarà la cultura come strumento di crescita collettiva e diritto fondamentale. Quindi è un festival a tanti incontri dove ci sono sacco di iniziative che quest'anno dal punto di vista della rassegna inseriamo anche una cosa molto bella che è una postazione di panificazione che facciamo insieme ai BVA, che è un'associazione che si occupa di questo, e quindi si insegnerà a fare il pane di tutte le etnie per poi anche donarlo al pubblico e alle persone che ne hanno bisogno. Si parte appunto venerdì 6 alle ore 16:30, incominciamo oltre al saluto di tutti i direttori con Ambra Angiolini, poi c'è questo incontro con Pane e Acqua con Matteo Enrico Monti, che è il direttore dell'IBUA, Ibrahim Lo, che è lo scrittore da dove è stato tratto da Garrone film Io Capitano, Carlin Petrini, creatore e presidente di Slow Food, Ermal Meta, Giacomo Porretti di Aldo Giovanni e Giacomo e Mauro Pagani, Loni di Boccia. È un panel al quale ci teniamo moltissimo perché racconta una storia non solo nostra ma una storia internazionale. C'è molto bisogno in questo momento di condividere tutta una serie di diritti, tutta una serie di cose che faticosamente negli anni tutti quanti noi hanno lottato per determinare. Poi ci sarà l'incontro con Antonio Albanese e Marino Smiderle, Povertà e Ricchezza si chiama, poi il Respiro di Milano, quarto d'ora fatto da vice direttore del Corriere Venanzio Postiglione, Abitare la Casa, Jonathan Batti e Fabio Vittorini, e poi Prodromi della Salute, tutto questo venerdì, con Edoardo Purgatori, Licia Colò e Francesco Maiorino, che è un assessore che a Milano ha lavorato moltissimo per l'inclusione, adesso è in regione, e che si occupa appunto anche della salute, Nicola Montano, che è un professore del Policlinico, con Luigi Ricamonti. Per poi un tema sul lavoro, il lavoro delle canzoni, a cura del Tempo delle Donne, e con Francesco Bianconi dei Baustelle. Poi alla sera l'anteprima Vermiglio, che è in concorso al Festival di Venezia. Questo è solo per citare il venerdì. Nel complesso quanti sono gli appuntamenti? Ce ne sono circa 10 al giorno. Tutto per il cinema è presentato da Enrico Bertolino. Se vuoi dico i più importanti di sabato, c'è Gabriele Salvatores, poi c'è Neri Marco Re con Paolo Condò che parlerà del suo film, c'è la cultura come valore popolare con Eli Schlein e Neri Marco Re, c'è il diritto di raccontare Valerio Mastandrea e Chiara Marteggiani, poi c'è clima, ambiente, scienze e spettacolo con Giovanni Storti e Caterina Sarfatti, e c'è il tempo che ci vuole, il cinema che salva, che è il panel d'incontro di Francesca Comencini con Fabrizio Giffuni. Poi alla sera c'è l'anteprima appunto del film, Tempo che ci vuole, e l'anteprima del film di Edoardo Leo, Non sono quello che sono, la tragedia di Otello di William Shakespeare. E poi c'è domenica con altri 10 incontri. 9 anni di fuori cinema con chi l'ha ideato, Cristiana Mainardi e Cristiana Capotondi, e con gli altri direttori artistici, appunto oltre a me, con Gina Michele, Salvatore, Mauro Pagani, Silvia Posa, Paolo Baldini. E ci lavorano tante persone, sono le persone che lavorano all'Anteo, perché come Anteo noi pensiamo che il luogo all'interno di una città deve essere un luogo vivo, deve essere un luogo dinamico, ma soprattutto essere un luogo sociale dove si incontrano delle persone e dove si chiacchiera, si discute, si approfondisce, oltre che emozionarsi o commuoversi. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Il programma www.fuoricinema.com, c'è la pagina Facebook di Fuoricinema e la pagina Instagram di Fuoricinema, o anche su spaziocinema.info, che è il sito della nona edizione di Fuori Cinema nei diritti. A Milano, alla Biblioteca degli Alberi, dal 5 all'8 settembre 2024, un saluto e un ringraziamento ad uno dei direttori artistici, Lionello Cerri. A presto! Grazie, ciao, ciao. Con Milo Adami, regista del documentario Appia Antica, storia di una tutela. Ben trovato! Grazie, grazie mille, è un piacere per me. Di cosa si tratta? Si tratta di un documentario che è stato prodotto dall'archivio Antonio Cederna per raccontare la storia del salvataggio dell'Appia Antica, perché l'Appia Antica, che oggi tutti conosciamo e da oggi, da poco, patrimonio dell'UNESCO, in realtà dopo la guerra era sotto minaccia, perché stavano costruendo ville di lusso, soprattutto attori romani, ma non solo, quindi la stavano di fatto edificando, e il progetto di edificazione doveva arrivare, pensate, quasi a 10 metri dalla via sacra. Quindi succedeva che ville private iniziavano a prendersi anche pezzi di monumenti, inglobandoli nelle mura, e quindi privatizzavano un'area di pregio archeologico inestimabile, e questo quindi è l'antefatto. Successe che un giovane archeologo, aveva 28 anni, si chiamava Antonio Cederna, e che studiava archeologia a Roma, perché lui fosse valtellinese di origine, e uno studente di archeologia si accorge di quanto stava accadendo e da archeologo capisce che doveva agire e doveva denunciare, scrivere degli articoli per fermare questa edificazione. E Antonio scrisse un primo articolo che si chiamava I gangster dell'Appia, senza mezze misure. Siamo nel 53, l'8 settembre, è il suo secondo articolo che scrive come giornalista e inizia a denunciare all'opinione pubblica sulle pagine del Mondo, che allora era un giornale molto letto, quanto stava accadendo. Pensate un po' il potere della stampa di allora. Dopo poche settimane ci fu una commissione parlamentare per capire se il signor Cederna Antonio avesse o no ragione. Quindi i suoi articoli iniziano a sollevare un'indignazione, e questa sua battaglia si unisce a quella di tante cittadine e cittadini d'Italia Nostra, comitati, che iniziano con lui a cercare di difendere questo bene pubblico che era l'Appia Antica. Ci riuscirà solo nel 1965, quando ci fu la legge che decretò quel luogo spazio pubblico, cioè parco, e quindi di fatto da allora, dal 65, non si può più costruire sull'Appia Antica, benché comunque centinaia di ville, ahimè, sono state costruite dal 53, quando lui inizia a scrivere, al 65. Quindi è una lotta di tutela che ha voluto valorizzare questo luogo come un luogo pubblico amato da tutti oggi, persino dall'UNESCO. Come nasce il progetto del documentario? Il progetto è nato perché collaboro da vari anni con l'archivio Antonio Cederna e con la famiglia di Antonio Cederna, Giulio Cederna, Camilla Cederna e in particolare Giuseppe Cederna, che tutti magari ricorderete come attore di Mediterraneo, di Salvatore, il film che lo ha reso più noto, ma non solo. E Giuseppe da anni cerca di valorizzare la storia del padre e dei suoi articoli, perché Antonio Cederna, dovete pensare, ha scritto articoli non soltanto sull'Appia, ma in tutta Italia. È stato veramente un grande grande difensore di quello che è il verde pubblico, del paesaggio, della salvaguardia del territorio, dell'ambiente. È stato un giornalista illuminato. C'è un sito bellissimo che si chiama I paesaggi di Antonio Cederna, dove tutti i suoi articoli sono stati digitalizzati, potete anche leggerli per capire quanto fosse avanti come difensore del bene pubblico. E Giuseppe legge, non perde occasioni per fare letture, per visite sull'Appia, ma non solo, per rendere nota la storia del padre. Con Giuseppe ci siamo incontrati circa 6 anni fa, abbiamo realizzato un primo documentario che vinse il premio Zavattini, con materiali d'archivio, di repertorio, raccontando le speculazioni edilizie che avevano cambiato il volto della città di Roma. Pensate che Roma oggi ha una superficie costruita che è pari a 12 volte Parigi, una città a macchia d'olio, come amava scrivere Antonio Cederna, che denunciava anche qui sulle pagine del Mondo con tantissimi articoli come la città si stava consegnando agli interessi dei costruttori privati, ma non agli interessi della qualità della vita, che lui diceva in futuro i romani pagheranno, e di fatto così è successo. Quindi io semplicemente attraverso il cinema e con l'aiuto di Giuseppe, che compare sia in Mirabilia Urbis, il primo documentario che abbiamo fatto insieme, e in questo Appia Antica, raccontiamo la storia di suo padre e rendiamo noto anche alle nuove generazioni, quelle più sensibili anche all'ambiente, quanto Antonio Cederna sia stato illuminante, nel senso che ha previsto il futuro. E quindi attraverso il cinema io mi impegno a ridare forza e vitalità alle sue parole, ancora oggi necessarie a mio avviso. Il documentario è fruibile liberamente su un sito internet. Sì, esatto, sia sul sito del Parco dell'Appia Antica, sia sul loro canale YouTube, il corto si può vedere, dura 10 minuti, anzi ed è stato proprio una scelta quello di renderlo pubblico e fruibile da tutti, affinché poi venga condiviso, perché questa è una storia, credimi, che persino i romani non conoscono, cioè i romani che amano tantissimo l'Appia Antica, è meta di domeniche in famiglia, bellissimo, anzi consiglio a tutti quanti di fare una passeggiata sull'Appia, di spingervi anche oltre Cecilia Metella, perché è veramente un qualcosa di unico, cioè ha un pezzo di campagna romana, di agro romano, che parte da Circo Massimo e arriva fino ai Colli Albani e oltre, perché in teoria il tragitto originale dell'Appia arrivava fino a Brindisi, però ecco, Roma ha una particolarità che è questo cuneo verde, che è una passeggiata tra archeologia e verde, agro-romano e profumo di pini e capre che pascono liberamente. Ecco, e tutto questo paesaggio così incontaminato, questa pausa urbana, come la chiameremmo oggi, è stata resa possibile soprattutto, ecco, da Antonio Cederna, che per primo l'ha difesa come luogo pubblico. E questo è importantissimo ricordarlo. Il documentario Appia Antica, storia di una tutela. Un saluto e un ringraziamento al regista Milo Adami. A presto! Grazie a voi. Grazie a voi. A presto. Con Francesco Di Giorgio, regista della docuserie Roma di Piombo, diario di una lotta. Ben trovato. Ciao, ben trovato a te, grazie. Che racconto è stato? È stato un racconto bello, intenso, per certi versi complesso, perché parlare di Brigate Rosse, ovvero di una realtà e di un periodo storico così delicato per l'Italia, è una responsabilità grossa, considerando pure che ovviamente parliamo di un tipo di racconto che è stato fatto in lungo e largo in tantissimi formati. Quindi per me è stata una grossa responsabilità, è stata un'esperienza molto forte, molto bella, perché mi ha permesso di approfondire un tema con dei protagonisti anche abbastanza inediti, perché nel caso nostro il racconto parte da quello che è il diario, come recita il sottotitolo della serie, il diario di una lotta fatto dall'ex colonnello di questo nucleo speciale, Domenico Di Petrillo, che appunto riporta quella che è stata l'azione di questo nucleo speciale voluto dalla Chiesa per fronteggiare la colonna romana, quindi tutto il fenomeno brigatista che nasce e si coagula particolarmente dopo l'uccidio di Moro. Ecco, quindi diciamo è stato un bel racconto, ecco, per quanto possa sembrare un aggettivo improprio, calcolando che parliamo di un periodo di sangue, però mi ha permesso anche appunto di studiare un periodo che in qualche modo viene letto un po' meno, perché se ci pensi, quando si parla di Brigate Rosse solitamente si pensa al culmine, no? Che appunto il rapimento e poi il successivo omicidio di Moro. Noi abbiamo preso invece proprio la coda di questo racconto, quindi siamo partiti da Moro per poi raccontare quello che è successo dopo, specificamente appunto per quel che riguarda Roma. E dopo quell'evento ce ne sono stati altri altrettanto importanti, e soprattutto appunto le Brigate Rosse hanno continuato ad avere una loro azione si è perpetrata per quel che riguarda appunto la nostra parte di storytelling fino alla seconda metà degli 80, quindi insomma è stato un racconto importante, ecco. In uno stile che mette insieme anche il giallo e il thriller, la grossa novità mi sembra proprio quella che riesce a far parlare i protagonisti di quella stagione da un fronte e dall'altro. Sì, esatto, questa è stata la cosa più delicata, perché la natura più autentica del documentario è quella appunto, tra virgolette, di documentare una realtà e farlo in una maniera più onesta, non dico oggettiva perché l'oggettività è impossibile, non è nemmeno giusta, quindi sicuramente noi avevamo un punto di vista, ma mantenere un equilibrio tra le forze armate da un lato e i brigadisti dall'altro era cruciale per poter restituire a un pubblico un racconto onesto per l'appunto. Tutto è partito dallo studio che Paolo Colangeli, l'ideatore della serie, ha fatto sul libro che ho citato prima, Diario di una lotta, appunto, di Domenico Di Petrillo, che era questo ex colonnello del nucleo speciale antiterrorismo voluto appunto dalla Chiesa dopo l'omicidio Moro. E quindi da un lato avevamo questo racconto abbastanza inedito, se mi permetti, perché veniva dalla voce di chi ha fronteggiato le Brigate Rosse, e ovviamente per dargli valore avevamo necessariamente bisogno dell'altra parte, dell'altro canto, e quindi necessariamente dei brigadisti. Per fortuna nelle figure di Francesco Piccioni da un lato, che è stato responsabile della logistica della colonna romana, e Paolo Percichetti dall'altro, siamo riusciti a bilanciare il tutto. La cosa che mi ha sorpreso è che erano voci importanti, che ovviamente si sono combattute, ma che in qualche modo riconoscevano tanto l'uno quanto l'altra il valore del nemico, nel senso che mi ha sorpreso sentir parlare appunto di Petillo, come anche dei colleghi, degli ex carabinieri, mi ha sorpreso sentirli parlare di nemici particolarmente preparati, nel senso che loro riconoscevano non solo la potenza ideologica che si portavano dietro le Brigate Rosse in quel periodo, quasi come fosse un'eredità della resistenza, quindi ne riconoscevano, tra virgolette, passa il termine, l'onestà, ma anche proprio la preparazione, nel senso che non erano nemici facili da fronteggiare, erano persone molto organizzate, molto preparate. E così dall'altro Francesco Piccioni, appunto, per quanto riguarda i brigatisti, riconosceva quanto si potessero essere dati da fare i carabinieri per poter fronteggiare un fenomeno di cui non sapevano, tra virgolette, nulla. Anche perché immagina che solitamente per arginare e contrastare un fenomeno di questo tipo devi lavorare molto con l'infiltrazione, e per un carabiniere dell'epoca era quasi impossibile poter passare inosservato in un contesto del genere. Quindi capisci che questo li ha portati a ingegnarsi in maniera straordinaria per riuscire a far fronte a una situazione di questo tipo, ecco. Altro aspetto molto interessante è la specularità, perché si trovano su entrambi i fronti a fare una vita da latitanti, praticamente, tutti e due gli schieramenti. Esatto, sì, esatto. Questa è una cosa molto forte, perché in qualche modo quando sceglievi, questo mi ricordo ce l'ha raccontato molto bene Francesco Piccioni, quando sceglievi la strada della rivoluzione, quando abbracciavi il movimento delle Brigate Rosse, in qualche modo tu davi la tua vita a quell'ideale e la tua vita diventava una vita totalmente sacrificata, nel senso che non essere totalmente fedeli e precisi a quel tipo di rigore significava essere beccati e nel miglior caso finire carcere, contando dall'altro pene lunghissime, e nel peggiore dei casi morire sul campo. E dall'altro lato, però, come dicevi, per i carabinieri era lo stesso, nel senso famiglie praticamente spezzate, perché appunto non c'erano orari, non c'erano feste, significava anche lì votarsi a una sorta di ideale. Quindi erano tutti e due fronti, come detto, costretti a una sorta di vita esule per poter gli uni combattere per i propri ideali e per gli altri per portare avanti la lotta armata. Nel tuo lavoro i protagonisti di quella stagione dimostrano la capacità di confrontarsi, cosa che ancora oggi manca a un'intera classe politica e al mondo dell'informazione. È un paese che non ha fatto i conti con quel passato. Sì, è un paese che rimane abbastanza incapace di fare i conti con quel passato, nonostante sia un passato che poi in qualche modo è stato così radicato, è stato così radicale, che però ha portato a un presente che è profondamente ingiusto, non so come dire, adesso magari la sto prendendo un po' alla larga, però se parliamo di giustizia sociale è difficile appunto vedere nel presente un tipo di uguaglianza, appunto di giustizia dura in questo senso. Proprio rispetto all'oggi, che riflessione fanno da una parte e dall'altra i protagonisti di questa storia nel tuo lavoro? Rispetto all'oggi, quello che mi ha sorpreso è che in fin dei conti c'è una profonda amarezza da tutti i due lati, perché in qualche modo tutti e due i fronti c'era una speranza, c'era una fede. Da un lato, parlando dell'arma, no? c'era il desiderio di salvaguardare uno Stato, di difenderlo, e dall'altra parte c'era il desiderio di rendere questo Stato più giusto, e tutti e due i fronti, parlando dell'oggi, questo appunto nell'epilogo della serie, sorprende vederli assolutamente insoddisfatti, perché per esempio uno dei carabinieri del gruppo dice proprio che si trova appunto in uno Stato che non rispecchia, in cui non si trova affatto, e così dall'altro Scioni, ma poi tu con le Brigate Rosse, insomma, in quella famosa intervista con Urcio e la Balzerani dopo la chiusura del movimento, già all'epoca dichiaravano che era una lotta che non aveva prodotto risultati, e tuttora appunto Piccioni riflette sul fatto che ci sono stati morti alla fine per trovarsi in una situazione ancora profondamente. La tua docuserie ha avuto una diffusione su piattaforme televisive, dove si può vedere? La serie è tuttora su Sky Documentaries, quindi sulla piattaforma Sky e su Now, quella online si trova. Credo si trovino anche le puntate in streaming sul sito di La 7, poi è stata trasmessa anche su altri network, quindi mi auguro che in qualche modo continui a circolare. Devo dire che ha avuto un buon riscontro di critica, e quindi ecco, insomma, al momento i canali sono questi, chissà che poi non si allarghi, ecco, il ventaglio di possibilità. La docuserie Roma di Piombo, diario di una lotta. Un saluto e un ringraziamento al regista Francesco Di Giorgio. A presto! Ciao, a presto, grazie. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.